Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Abbiamo parlato molte volte di come i dati stiano diventando fondamentali per il mondo dei consumi. Pensiamo all'utilizzo dei big data per la profilazione dei clienti, il marketing, la programmazione della produzione, tutte cose che tendono a migliorare l'esperienza di consumo in molti settori, anche, perché no, in chiave antispreco. Gli scenari che si aprono, i campi di applicazione sono infiniti, ma i dati, insomma, sono stati così protagonisti. Quella che stiamo attraversando è una vera e propria era dei dati. Ecco perché mi piace raccontarvi, l'ho scelto come primo argomento dell'anno, un libro che parla di numeri e calcio, della statistica applicata al pallone, che diventa il modello perfetto per parlare di economia e scienze sociali in genere. La stagione dei saldi è iniziata, meglio avere le idee chiare e puntare su capi, accessori che hanno un futuro, per così dire, incontrano le tendenze emergenti, non quelle che stanno già per finire. Focus sui trend dedicato infine a scienza e consumi, dai libri sull'ingegneria dei materiali che diventano best seller, agli strumenti scientifici che escono dai laboratori e arrivano sugli scaffali dei supermercati. Ci sono squadre ricche e ci sono squadre povere. Poi ci sono 20 metri di merda. Poi ci siamo noi. Benvenuto a Oakland. Il mio lavoro è portare questa squadra al titolo. Mi servono più soldi. Non sfiderò libri paga da 120 milioni di dollari. Dobbiamo pensare in modo diverso. Lo scopo non deve essere comprare giocatori. Lo scopo deve essere comprare vittorie. Ecco 25 giocatori sottovalutati da tutti. Un'isola dei giocattoli difettosi. Qui dentro c'è una squadra vincente che ci possiamo permettere. È la nuova direzione degli Oakland Athletics. Non si mette insieme una squadra con un computer. Adattarsi o crepare. Magari non sembrate una squadra vincente, ma lo siete. Quindi giocate da vincenti. Stiamo facendo qualcosa di speciale e la città lo sente. Se vinciamo con questa squadra, cambieremo per sempre questo sport. Con Moneyball, l'arte di vincere, protagonista Brad Pitt nei panni di Billy Bean, primo dirigente a usare in modo scientifico i numeri nello sport, in questo caso era il baseball, introduciamo la scienza dei gol. Coautore Luciano Canova, il nostro ospite di oggi. Buonasera Luciano. Buonasera Maria Luisa e buonasera a tutti. Allora, la scienza dei gol, numeri e calcio, che ci azzeccano, direbbe qualcuno? Ci azzeccano un sacco. Parto subito col dire che appunto sono coautore di questo libro insieme a Carlo Canepa, che è un giovane filosofo, per cui un economista e un filosofo che prendono dei dati un po' curiosi e li applicano al mondo delle scienze sociali. Hai citato appunto il film Moneyball all'inizio, L'arte di vincere, e la storia di Billy Bean è proprio paradigmatica, perché la sport analytics, cioè l'uso dei dati nello sport, è ormai storia negli Stati Uniti. Si è partiti con il baseball, diventa anche una modalità di engagement con proprio i telespettatori per il basket, ormai le persone sono patite di statistiche, quindi tutti hanno fame di dati. E in realtà noi cerchiamo di fare una specie di rassegna, una specie di reading digest di tutta la letteratura sportiva della sport analytics legata proprio al calcio. Finalmente anche in questo sport è proprio decollata la sport analytics. Ci sono intere aziende che stanno proprio costruendo la loro fortuna sulla raccolta di dati che vengono usati dalle squadre di calcio per le loro performance, ma che hanno anche delle applicazioni al di fuori del calcio, perché noi utilizziamo per esempio i salari dei calciatori per fare delle considerazioni sulla distribuzione del reddito e sulla performance, oppure il numero degli stranieri nella squadra e la performance è utilizzato in scienze sociali per studiare gli effetti della multiculturalità sulla prestazione e sulla discriminazione. Insomma, sono anche temi di rilevanza di policy. Sì, perché voi sostenete la scienza può aiutare il calcio, ma anche il calcio può aiutare la scienza. I vostri capitoli sono appunto sempre divisi in due. Abbiamo impostato il libro come se fosse una partita, quindi ci sono 11 capitoli come giocatore di una squadra, un primo e un secondo tempo. Il primo tempo di ogni capitolo è dedicato proprio all'uso dei dati nel calcio, quindi a uso e consumo dell'allenatore che poi ne fa qualcosa per la prestazione della sua squadra, mentre il secondo tempo è ciò che scienziati, sociali, economisti, sociologi, politologi fanno di questi dati per interpretare le loro teorie. L'esempio che mi viene più semplice è quello dei calci di rigore, perché i calci di rigore sono un ottimo esempio, diciamo così, sperimentale per la verifica della teoria dei giochi. La teoria dei giochi è una branca della matematica che in economia si utilizza per studiare le interazioni tra persone e anche le decisioni economiche tra persone, per esempio il dilemma del prigioniero e tutti quei giochi che hanno avuto una loro eco con John Nash e un altro film che citiamo, Beautiful Mind. I calci di rigore sono un ottimo esempio in questo senso, perché da un lato c'è l'attaccante che ha di fronte due possibilità, tirare a sinistra, tirare a destra, dall'altro c'è il portiere che deve fare esattamente la stessa scelta, mi butto a destra, mi butto a sinistra, e lo fa sulla base di quella che pensa sarà la strategia dell'attaccante. Questo è proprio un esempio classico di teoria dei giochi, e infatti in teoria un equilibrio di Nash potrebbe essere quello, tira in mezzo, perché è la strategia migliore per arrivare a una decisione. E questo è un ambito che è di interesse per il calcio, ma lo è anche per le decisioni strategiche in economia, per esempio nelle forme di mercato oligopolistiche in cui ci sono due aziende che competono su un mercato, che esattamente come un attaccante e un portiere prendono le loro decisioni pensando strategicamente a ciò che farà il loro competitor. Ci saranno carriere da statistico nelle squadre di calcio del prossimo futuro? In realtà c'è già, tra l'altro, cioè la figura del data manager è sempre più rilevantissima all'interno delle squadre, cioè la persona che proprio aiuta l'allenatore a decifrare le statistiche. Ci sono intere aziende che stanno appunto costruendo il loro successo sulla raccolta di questi dati. Citiamo il caso di un'azienda più volte nominata nel libro italiana, un'azienda di Genova, Y-Scout, che è nata come startup qualche anno fa ed è un'azienda che fa proprio sport analytics, raccoglie i dati delle partite per le squadre di calcio, ma oggi vanta più di 300 dipendenti perché di fatto offre servizi alle squadre di calcio in tutto il mondo. E quindi in realtà questo è veramente un ambito su cui, quando si dice uno si deve inventare il proprio lavoro, ecco, visto che tra l'altro siamo appunto nel paese dove il calcio è religione, questo potrebbe essere un ambito interessante per chiunque volesse cimentarsi con dati utilizzati in un contesto molto diverso. Da profana assoluta del mondo del calcio, lo confesso, mi hanno incuriosito termini come la calciometrica oppure il tasso di cambio dei gol. Li avete coniati voi? Ma in realtà soccer metric, soccernomics e molti di questi termini sono utilizzati in letteratura scientifica, perché veramente la mole di studiosi che utilizzano questi dati per le scienze sociali è rilevante, per cui speriamo di aver fatto un buon lavoro di rassegna, ma anche di offerta di spunti per chiunque volesse e cimentarsi con questo mondo da un punto di vista di lavoro, e anche per gli appassionati che intendono provare curiosità, come può essere il vantaggio di giocare in casa o conviene esonerare un allenatore se la squadra sta giocando male durante un anno. È in qualche modo l'inizio di una certa ingegnerizzazione del calcio? Resta ancora lo spazio per l'estro, la fantasia, il colpo di genio, l'imprevedibilità? Questa è una bella domanda, e tra l'altro noi abbiamo, diciamo così, dato il famoso colpo alla botte offrendo proprio la parola agli esperti, quindi abbiamo intervistato degli allenatori per capire se loro stessi utilizzano questi dati, e tra tutti citiamo Cesare Prandelli, l'ex commissario tecnico della nazionale, ci ha proprio detto che il dato serve, e serve molto, perché ovviamente dà uno sguardo, un approfondimento anche sulla salute del giocatore, che al giocatore stesso serve per aumentare le sue prestazioni. Tuttavia il calcio, e questa è forse la differenza più apprezzabile rispetto al basket e al baseball, ha un sistema più complesso, per cui ha un elemento di imprevedibilità e di creatività che fortunatamente rende questo sport comunque ancora molto godibile e molto legato al caso. E infatti c'è anche un capitolo in cui noi parliamo del ruolo che il caso ha nel calcio, cioè da un lato sicuramente la tecnica aiuta a migliorare le prestazioni, dall'altro fortunatamente questo sport, che noi definiamo lo sport più bello del mondo, rimane ancora fortemente legato alla fortuna, a eventi incidentali e alla creatività all'estero del talento. Grazie a Luciano Canova per essere stato con noi. Grazie a te e grazie a tutti gli ascoltatori. Buonasera. Sono iniziati per lo più il 5 gennaio, quindi oggi si è chiuso il primo weekend di saldi. Se non avete già esaurito il budget a disposizione, tra pochissimo le nostre dritte su colori, capi e accessori. Restate con noi subito dopo la pausa. Io vorrei un'Europa in cui le persone non hanno paura di perdere la propria nazionalità o le ricchezze del loro paese. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Essere e avere. Non è detto che perché sono qui devo per forza comprare. Infatti no. Nel momento topico mi devo domandare, mi serve davvero? Ho bisogno di questi guanti di cashmere dato che è inverno e possiedo due mani, basta e avanza. Comprerò questi e solo questi! Mi allontanerò, forte e parsimoniosa. Ho trovato gli stivali di Pucci! Oh, mi dispiace tanto! Io ho visto che li lasciava sul banco! Dammeli e non ti succederà niente! Sì, no! Falla quegli stivali! C'è una svendita di perderi! Un trucco vecchio come il cucco! Dammeli! No, dammeli tu! Sono stata in fila tutta la mattina per prenderli! Looking good and feeling fine. Looking good and feeling fine. I Love Shopping insegna con i saldi no all'acquisto indiscriminato. L'importante è avere le idee chiare, puntare su capi che durino, quindi sì alle tendenze emergenti con un occhio a quello che si è già visto in passerella e arriverà nei negozi nei prossimi mesi. Allora ci siamo fatti aiutare da un'esperta, Sara Azzone, la direttrice della scuola di moda dello IED, l'Istituto Europeo di Design. Faccio una piccola premessa, io sono una fan del vintage, per cui il primo consiglio che do sempre a tutte le persone che mi chiedono cosa comprare è comunque di andare in un buon negozio di vintage o comunque in giro, perché un capo vintage ha un sapore e un'attrazione per me che nessun negozio ha. Dovendo però scegliere tra quello che si trova in giro, punterei assolutamente su un pigiama. Ovviamente intendo un capo floreale, quindi un completo maschile sopra e sotto con una bella stampa floreale, come anche hanno proposto Gucci o Dolce & Gabbana con una bella stampa fiorata. È un acquisto che io consiglio caldamente. Ed è un capo che ci portiamo in primavera. Direi che ci portiamo in primavera, credo che possa essere utilizzato sia tutto intero per una serata coraggiosa ma anche spezzato, perché comunque sono dei pantaloni morbidi, allegri, gioiosi che appunto richiamano la primavera e soprattutto sono di assoluta tendenza. Sempre per rimanere sul tema fiorato, io cercherei anche un bel completo maschile, sempre lavorando con queste stampe o con questi disegni a fiori stile tappezzeria, quindi sono tutti dei richiami ovviamente alle ultime collezioni di Gucci, però ecco, continuare a rimanere sulle stampe, dall'animalier al camouflage, farfalle o mimetico, quindi qualcosa di molto colorato, però ecco sì, lavorerei assolutamente su tutti i colori dell'arcobaleno. Vorrei citarti così due pezzi forti di questi mesi per capire che speranza di vita hanno, ecco, diciamo sì. Così. Allora, il gilet di Eco Pelliccia che si è visto un po' dappertutto e la felpa particolare, ricamata, eccetera. Allora, la felpa la continuano a dare per morta e invece continua ad avere una grande attrattività, probabilmente perché comunque è un capo molto facile, quindi è un acquisto che si può fare a cuor leggero. Qualche felpa stampata o colorato, comunque con qualche fantasia, se si trova io mi butterei. E poi sì, il gilet di Eco Pelliccia, anche perché leggevo qualche giorno fa che a New York York pare che alcuni negozi addirittura caccino le clienti con la pelliccia vera, per cui se si continua a desiderare questo tipo di capo, direi di buttarci assolutamente sull'eco. Tacchi e dimensione delle borse. Ah, allora, anche qui credo che davvero uno debba seguire il proprio istinto, nel senso che l'idea è quella di lavorare su borse o molto piccole o molto grandi. Piccole, magari appunto piuttosto squadrate con delle catene come quelle di Color, di Miu Miu o di Louis Vuitton, oppure appunto con la catena per Chanel. Le eight bag di questo momento sono borsine molto piccole. E la scarpa, il tronchetto, sì, ancora? Quello rimane assolutamente, quindi quello è un ottimo acquisto e va fatto. Focus sui trend. Dal rilevatore di glutine domestico agli auricolari bionici, passando per i libri sull'astrofisica e l'ingegneria dei materiali che diventano bestseller. La scienza esce dai laboratori e diventa prodotto di consumo. Questa è la tendenza della settimana che analizziamo in compagnia di Isabella Guaitoli di Future Concept Lab. Ciao Isabella, ben trovata. Ciao Maria Luisa, buonasera a tutti. Allora, partiamo dai libri, dalla divulgazione scientifica con i temi iperspecialistici che diventano temi da bestseller. Sì, assolutamente. Se andiamo a vedere un po' i libri che abbiamo trovato nelle librerie, per esempio per questo Natale, ci sono tanti titoli che testimoniano un po' questo nuovo approccio, no? Più curioso e divertito, ma al contempo anche più approfondito alla scienza e ad argomenti, come hai detto tu, iperspecialistici. Non si tratta però tanto della classica saggistica, ma di qualcosa di nuovo, perché gli scrittori, che sono spesso anche scienziati, cercano di accompagnare con leggerezza i lettori in questa avventura di scoperta che è una loro passione, oltre che la loro vita. Per esempio, io segnalo Dove va a finire il cielo, che è il nuovo libro di Licia Troisi, la nostra scrittrice italiana di fantasy. Lei è in realtà un'astrofisica, che solo adesso, però, dopo 12 anni di carriera, scrive un libro di vera e propria divulgazione scientifica. In questo libro parla proprio dell'universo come di un posto pieno di storie, dove trovare tante storie nuove. Mark Miodonic è un ingegnere dei materiali che insegna presso lo University College di Londra e dirige l'Institute of Making, che si occupa di materiali autoassemblanti, autoriparanti, delle proprietà psicofisiche delle sostanze, cioè materie molto specifiche che però ama divulgare, ha tantissime attività. Per esempio contribuisce a programmi della BBC come la serie TV How It Works. Ecco, lui ha presentato ad ottobre al Festival delle Scienze di Genova un libro che si chiama La sostanza delle cose, dove racconta il mondo delle nanotecnologie che stanno cambiando la nostra vita, perché sono applicate ai materiali di uso più comune, come può essere il vetro o il cemento. E in questo libro lui svela come funziona, per esempio, il cemento armato che si aggiusta da solo, e parla anche, però, non so, della struttura chimica di una tavoletta di cioccolata. Perché anche secondo Miodonic, tutti i materiali che ci circondano hanno storie magnifiche da raccontare. Un altro libro, e anche proprio tutto il suo lavoro interessante, ma molto originale e molto ironico, è quello di Randall Munroe, un autore americano conosciuto su web per una striscia di fumetti super stilizzata che tratta di scienza, tecnologia e interrogativi esistenziali, che si chiama XKCD. Ecco, Randall ha studiato fisica, ha lavorato presso la NASA fino al 2006 e poi ha deciso di dedicarsi a tempo pieno a questa striscia e alla sua attività da fumettista. Adesso arriva in Italia un libro, Cosa accadrebbe se, che, come il sottotitolo spiega, cerca di dare risposte scientifiche a domande ipotetiche assurde. Quindi umorismo in prima linea, e le domande, tanto per avere un'idea, sono, non so, cosa accadrebbe se si facesse una nuotata in una piscina di combustibile nucleare esausto, oppure Yoda, il maestro Jedi, può impiegare la forza per ricarare la sua smart elettrica, insomma, interrogativi assurdi ai quali però lui cerca di dare risposte dettagliatissime, documentatissime, appunto dal punto di vista fisico, scientifico, quantistico e così via. E adesso Munroe ha pubblicato anche un altro volume, non ancora arrivato in Italia, che si chiama Thing Explainer, in cui quest'umorismo viene dirottato sugli oggetti complessi del quotidiano, non so, gli smartphone, i microonde, i data center, ecco, vengono spiegati attraverso dei diagrammi, dei disegni dettagliatissimi, ma un linguaggio super semplice, usando appunto le mille parole più utilizzate, più comuni della lingua inglese. Anche i social network, ovviamente, sono territorio di conquista per la scienza. Sì, assolutamente sì, e adesso oltre ai blog, diciamo, di singoli autori o cultori, no, appassionati, si iniziano a vedere anche dei gruppi di giovani appassionati divulgatori, chiamiamoli così. Un caso nostrano carino è quello di GAM, la community dei giovani astrofili milanesi, che su Facebook si autodefinisce un gruppo di ragazzi appassionati di astronomia, ma anche astrofisica e tecniche di osservazione del cielo. E sul social GAM, per esempio, propone notizie dal mondo dell'esplorazione spaziale, immagini bellissime su questi temi e anche si impegna perché vuole, per esempio, chiarire definitivamente la differenza, anche da un punto di vista filosofico e storico, tra astronomia e astrologia, ma con dei metodi e delle modalità appunto che sono quelle delle generazioni più giovani. Hanno un canale YouTube e lì, per esempio, tra i video più recenti propongono l'oroscopo 2016, astrologia versus astronomia. Come sempre tutti i link, la gallery, le immagini e i riferimenti sulla nostra pagina Facebook. Chiudiamo, Isabella, con i prodotti, perché sulla scia di questa tendenza anche gli strumenti scientifici escono in qualche modo dai laboratori e diventano oggetti di consumo. Degli oggetti che possono essere visti come di laboratorio, se vogliamo, diventano dei gadget iperspecializzati e appunto diventeranno prodotti, se non lo sono già, da comprare nei negozi di elettronica, in farmacia e in futuro, perché no, no, anche nei supermercati. Basti pensare per esempio al boom dei test del DNA, no? A scopo preventivo, per scoprire se si hanno malattie o predisposizioni particolari. Ecco, allora, se vogliamo vedere a un livello ancora più allargato, per esempio c'è il sensore portatile, come hai accennato tu all'inizio, che rileva la presenza di glutine nei cibi. Si chiama NIMA, è stato creato dall'americana Six Sensors Lab di San Francisco e permette alle persone celiache di portarselo in borsa e di poter fare il test appena prima di mangiare il cibo che si trovano nel piatto, perché ci mette solo 2 minuti a rilevare appunto la presenza di glutine. Ultimo caso che segnaliamo è quello che hai accennato, si chiama HEAR, degli auricolari bionici, che fanno parte in realtà di un vero e proprio sistema di active listening che è stato messo a punto da Doppler Labs di New York. Il loro creatore lo definisce uno strumento di augmented audio reality, cioè realtà aumentata audio. Praticamente sono degli auricolari senza fili, collegati con un'app per smartphone, che sono dotati di un equalizzatore a 5 bande al loro interno e filtri preimpostati che permettono di abbassare e cambiare la frequenza dei suoni, suoni specifici, rumori, per cui se c'è un trapano nella casa di fianco, una conversazione accanto in treno che ci infastidisce, possiamo equalizzare il suono in modo tale da neutralizzarla, quindi assolutamente un sistema di filtraggio molto sofisticato. E infatti anche questo è nato originariamente per un pubblico specialistico di musicisti e concertisti e arriva adesso a proda al mercato allargato. Beh, un'autoprotezione da inquinamento acustico fantastica, insomma, per le proprie giornate magari di concentrazione disturbate da vicini, come dicevi tu, rumorosi. Grazie a Isabella Guaitoli, alla prossima. Grazie a te e alla prossima, arrivederci a tutti. Il consumautore. Ci ha raggiunto in studio come sempre per la riflessione finale sulle parole chiave del marketing e della comunicazione il sociologo Francesco Moraci. Buonasera Francesco. Buonasera a te Maria Luisa e a tutti i radioascoltatori. La parola di oggi. La parola di oggi è una parola che spero potrà essere importante per questo nuovo anno. È una parola un po' complicata ma poi la spieghiamo ed è la deponenza. Io prendo spunto da un libretto molto interessante di un sociologo, Mauro Magatti. Il libro si chiama Prepotenza, impotenza e deponenza. Ecco, la deponenza è il punto, diciamo, di equilibrio tra l'essere passivi e l'essere attivi. Chi ha reminiscenze da liceali ricorderà che nel latino e nel greco, oltre che l'attivo e il passivo, esiste anche questa forma deponente. Vuol dire essere passivi ma in un modo attivo, quindi avere un contesto che viene rispettato e nessuno di noi costruisce da solo la propria esistenza, ma in questo una possibilità di essere invece attivi. Ci vedo anche un collegamento con la dimensione di collaborazione, di condivisione che contraddistingue, penso, il mondo dei social, della comunicazione, delle nuove economie, la sharing economy su tutte. È così, perché essere, in fondo pensiamo deporre, no? Viene utilizzato ancora oggi, io depongo a favore di qualcuno, ad esempio, quindi conosco il contesto, lo rispetto e quindi su questo non è che sono passivo e quindi non posso fare nulla, ma lo devo rispettare. Non è vero che tutto viene costruito attorno a noi, sempre e comunque, no? È il punto di equilibrio e quindi nella sharing economy questo è molto importante, tra la nostra visione del mondo e quella degli altri, anche c'è il rispetto nell'altro, nella condivisione. Ci sta anche, Francesco, un riferimento aziendale, per così dire, strategie di prodotto tra la nicchia e la grande scala, sono scelte che oggigiorno tutte le aziende si trovano a fare. Assolutamente, c'è quel punto di equilibrio tra la soggettività, quindi personalizzazione, essere vicino al consumatore, e la invece socialità, la collettività, avere valori che sono comunque valori civili, sociali. Un'organizzazione anche orientata al business questa cosa la deve capire e rispettare. Fantastico, come sempre, Francesco. A domenica prossima. Arrivederci. Grazie in regia a Filippo Aureggi. Essere Avere finisce qui. A domenica prossima. Non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.